You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi, solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo sì di migrazione, parliamo come sempre delle radici che molti di noi hanno da qualche altra parte. Abbiamo affrontato qualche volta il tema dell'adozione internazionale, l'adozione di bambini stranieri da parte di genitori italiani, anche quello è un modo, no, di avere radici altrove, ma l'abbiamo sempre fatto dalla parte dell'adottato, del bambino diventato adulto, ma è dalla parte dei genitori adottivi che non adottano solo un bambino, ma in un certo senso un intero paese, no? Perché non possono prescindere da quella cultura dove il loro figlio è nato, magari anche un po' cresciuto. Quindi questa sera la nostra cena è una cena, per così dire, italo-russa. Abbiamo ospite Amaltea, che ha scritto un bellissimo libro emozionante, divertente, ben scritto, molto utile per chi vuole adottare. Il mare non chiude mai, adottare tre bambini e restare allegri. Amaltea, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Lei ha, diciamolo subito, tre bambini, i suoi figli di origini russe. Sì. Sì, è un aspetto che effettivamente quando si comincia l'iter adottivo si sottovaluta, perché ci si concentra, anche nel caso di adozione internazionale, ci si concentra sul fatto che si avrà un figlio o dei figli, un bambino o dei bambini, ma si pensa meno al paese da cui questi bambini arriveranno. E invece è una cosa importante che rimarrà davvero per tutta la vita, e nel caso dell'adozione internazionale comincia, diciamo, però da un certo punto in poi, cioè quando si sceglie, si dà mandato a un ente per un paese o per un altro, e quindi in qualche modo si sceglie di quale nazionalità sarà il proprio figlio. Quando sua figlia le ha chiesto "io sono russa", lei cosa ha risposto? Io le ho risposto certo che lei è russa e che è anche italiana, e quindi ha due, cosa che in effetti è, perché anche da un punto di vista come dire della cittadinanza, la doppia cittadinanza, potrà scegliere a 18 anni. Io credo che da questo punto di vista sia importante per i genitori adottivi che hanno dei figli che vengono da paesi lontani e davvero accogliere anche quel paese, perché i bambini percepiscono laddove c'è un rifiuto, laddove c'è una voglia di dimenticare, una voglia di rimuovere quelle origini, e anche quando ovviamente c'è un passato doloroso, è bene che il genitore adottivo si faccia carico anche di ripararlo, di ricomprenderlo, e questo passa anche attraverso l'amore per il paese di provenienza dei propri figli. Anche se poi questo non vuol dire che non si possa, ad esempio, cambiare il nome, no, dei propri figli, Amaltea. Sì, al cambio di nome è dedicato in effetti un capitolo del libro. È un momento, diciamo, che è davvero anche una grande occasione di riflessione per un genitore adottivo, che ne ha per la verità tantissime durante tutto l'iter, perché a un certo punto gli viene chiesto di dare un nome, di cambiare eventualmente il nome al bambino. Quanti anni avevano i suoi figli quando sono stati adottati? 3, 5 e 6. Quindi avevano già dei nomi. Sì, avevano già dei nomi e in realtà uno di questi nomi, del più piccolo, era un nome davvero un po' impronunciabile per un italiano e quindi abbiamo pensato di cambiarlo, cioè di tenere il suo nome come secondo nome e di aggiungerci un altro nome. È stata una cosa piuttosto, insomma, meditata, perché si tratta comunque di cambiare una parte dell'identità e dell'origine del proprio figlio. Però io credo che al fondo con l'adozione il nome si cambia comunque, non solo per una questione evidente, diciamo, di pronuncia diversa, perché parliamoci chiaro, i nomi sono anche calati in dei contesti fonetici e linguistici spesso molto lontani dai nostri, ma penso che davvero vada in qualche modo segnato l'inizio di una nuova vita, perché davvero è, e questo è anche il motivo per cui io, uno dei motivi per cui ho scelto lo pseudonimo, perché anche per me per questa nuova esperienza era importante, anche come voce narrante, farlo con un nuovo nome. Vorrei leggere un passo del libro, perché poi il libro va letto, perché è proprio bello, scritto bene, emozionante, divertente. A un certo punto si arriva, no? A questo punto tutti i bambini chiedono: sono nata dalla tua pancia? E lei risponde: ti ricordi quella volta che dovevamo andare in campagna dagli amici? Però aveva piovuto tantissimo, loro ci avevano detto di non raggiungerli più. Certo, mamma, ha fatto lei, era domenica, avevamo preparato anche la borsa per il picnic. E ti ricordi che abbiamo deciso di cambiare programma, di andare al parco acquatico per vedere gli animali? Sì, ma poi il parco era chiuso. Esatto, allora ci siamo chiesti: e adesso che si fa? Si va al mare, ha proposto il papà. Sì, il mare, abbiamo detto tutti. Quindi, mamma, noi siamo il mare. Sì, amore, le ho risposto io, voi siete il mare. A integrare e a completare, solo per anche aggiungere, no? Cioè, il senso di quella storia era: come può una giornata, diciamo, tutta sbagliata diventare invece una giornata perfetta? Perché fu una giornata molto divertente e era cominciata veramente molto male, perché tutte le cose che volevamo fare non si riuscivano a fare. E questa è un po' la storia dell'adozione, cioè finisce in un modo che non ti aspetti, perché l'adozione è un momento a cui si arriva dopo che si sono esplorate altre strade di procreazione biologica o artificiale o assistita. La maggior parte dei genitori adottivi non cominciano con l'adozione, ma ci arrivano all'adozione, e quando ci arrivi però ti rendi conto che appunto era davvero così che doveva andare. E questo è un altro punto a cui sono molto legata del libro, cioè l'idea dell'insuccesso, no? L'insuccesso procreativo, che è in realtà una cosa che nell'adozione si trasforma in una cosa che invece semplicemente non è successa. E penso che ognuno di noi nella propria vita registra tantissimi eventi che non gli sono accaduti perché gliene sono accaduti altri, e quindi in fondo l'adozione è un'esperienza di grande trasformazione, trasformazione di significati, rovesciamenti. Da un punto di vista, direi proprio esistenziale, è un'esperienza di arricchimento straordinario. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te come l'anno scorso. Amaltea, questa è una canzone citata da lei nel libro. E poi il mare torna anche nel titolo, no? Perché? Sì, effettivamente è un filo, diciamo, rosso che si è creato proprio, direi naturalmente. Questa canzone è stata una delle prime che i nostri figli hanno ascoltato. Ricordo ancora, insomma, veramente una simpatica zia che ci regalò tutti i successi degli anni 60, che insomma non avevamo in realtà prima di allora tanto approfondito, e che si è rivelato per i bambini un'autentica, diciamo, epifania linguistica. Intanto perché, come poi poi ho avuto occasione anche di rifletterci, e hanno un italiano direi perfetto, senza inflessioni dialettali, molto corretto proprio nelle consecuzioni, nei tempi, e hanno una semplicità di motivi che si rende facilmente orecchiabile. Per i nostri figli è stato davvero un canale di ingresso nell'italiano direi molto bello, sì. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a the drive. Amaltea, dicevamo all'inizio, adottare dei figli con l'adozione internazionale è un po' fare anche un tuffo in un'altra cultura. Voi avete passato del tempo in Russia. Che ricordi avete di quel periodo? Beh, innanzitutto diciamo conoscevamo la Russia già da prima e quindi questo ha reso più facile non solo l'idea di adottare Russia, che è stato diciamo una specie di istinto naturale, ma anche ecco, questo è davvero una cosa che mi sento di dire, non bisogna nell'adozione sottovalutare l'importanza dei paesi d'origine. Diciamo, il mio non è un libro di consigli perché è semplicemente una testimonianza, però se davvero mi posso avventurare in un unico consiglio è quello di colmare tutte le fasi dell'attesa con le cose che vengono dal paese da cui i nostri figli o nostro figlio arriverà. Per cui non so, per noi è stato molto importante ad esempio comunicare con loro nella loro lingua all'inizio, non sappiamo il russo benissimo ma abbastanza da poter parlare con dei bambini, e allora capisco che magari non tutti, cioè il russo è poi una lingua difficile ma ce ne sono di ancora molto più difficili, però quando non è la lingua c'è la cultura, la musica, l'arte, ogni paese ha qualche cosa. Ecco, io credo che diciamo compito di un genitore adottivo consapevole sia anche quello di avvicinarsi, proprio visto che c'è molto tempo in cui tempo vuoto di attesa, di avvicinarsi alla cultura del paese di origine del figlio. E nella cultura del paese d'origine c'è anche la cucina, e allora noi, per un po' scherzare su questo tema, abbiamo preparato una scheda sull'insalata russa. A differenza di falsi storici come il pan di Spagna, che non è spagnolo, o la zuppa inglese, che si guarda bene dall'essere britannica, l'insalata russa è effettivamente russa. È un antipasto e pare lo si debba all'inventiva dello chef di un ristorante moscovita a metà 800. L'inventore è Louisien Olivier, di origine francese. Con sua grande sorpresa, questa ricetta ebbe un grandissimo successo. In Russia la chiamano Olivier, o più semplicemente insalata invernale. Ai tempi dei Soviet la chiamavano Salat Stolichny. Ricetta per 4 persone. Carne colbasa, 300 grammi, in sostituzione potete usare la mortadella. 4 uova, 350 grammi di patate, un barattolo di piselli verdi, 100 grammi di cetriolini sott'aceto, 150 grammi di cipolla, 2 carote opzionali, sale e maionese. Bollire le uova per 8 minuti e aspettare che si raffreddino. Lessare le patate e le carote e aspettare che si raffreddino. tagliare a piccoli cubetti colbasa, uova, patate, cetriolini, carote, cipolla cruda e porre in una insalatiera. Aggiungere i piselli verdi e il sale. Poco prima di servire, aggiungere maionese a piacimento. Amaltea non è chiaramente un manuale di consigli, però io l'ho trovato molto utile per chi volesse approcciarsi a questo percorso. Sono i tempi che spaventano, sono i costi alle volte che spaventano. Sì, allora, diciamo che c'è un tempo giusto e un tempo invece completamente sballato. Il tempo giusto, a mio avviso, è quello richiesto per ottenere il decreto di idoneità, in qualche modo una specie di patente che fa sì che possiamo accedere all'adozione internazionale. In questo tempo, che dura un anno e qualche mese, si è chiamati al confronto con gli assistenti sociali, con gli psicologi, e credo che si tratti davvero di un tempo importante, perché poi cioè l'adozione non è andare al mercato e scegliere un bambino. L'adozione è un percorso che poi, quando il bambino arriva, si coglie in tutta la sua dirompenza, in tutta la sua anche gravità, in tutta la sua enormità emotiva, scatena davvero delle risorse che non si pensa di avere. Per cui credo che quella fase del confronto con gli specialisti dei servizi sociali, che hanno grande esperienza e che sono tendenzialmente persone che lavorano tantissimo con grande dedizione, sia un confronto essenziale. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto. Ecco, quello della nostalgia è un altro tema che immagino attraversi i bambini e poi gli adulti che saranno. Voi avete pensato a quando e se riaffrontare con loro un viaggio in Russia? Ma io sì, lo do assolutamente per certo. Adesso riusciamo a malapena a arrivare fuori porta, perché per motivi organizzativi, di numeri e di cose da portare. Non voglio allo stesso tempo anticipare e costruire io quella che credo debba essere anche una ricerca, una costruzione che ognuno dei miei figli farà dentro se stesso. In questo penso che i genitori debbano essere di sostegno, ma non debbano neanche troppo anticipare o forzare dei desideri. Penso che a questo viaggio, questo posso fare io adesso, bisogna comunque prepararsi, prepararsi emotivamente e come? Alla fine, nello stesso modo in cui si cerca di sostenere le domande più difficili, cioè con l'ascolto, con la vicinanza, creando un legame forte, facendo in modo che si diventi gli uni per gli altri una buona abitudine. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella neve. Ho trovato particolarmente emozionante il racconto del primo incontro con i bambini. E poi allo stesso tempo ho trovato emozionante il momento in cui la bambina dice: tu non sei mia madre. Sì. Allora, tu non sei mia madre è proprio il tema dell'adozione visto dal punto di vista del genitore adottivo. È la cosa che in qualche modo ci verrà detta per sempre, per cui ognuno poi, come dire, la tratta dentro di sé con le risorse che ha. Io questa cosa l'ho accettata con grande serenità, dico la verità, un po' perché penso che sia molto vera e molto falsa allo stesso tempo. Per fare un esempio, mi è capitato appunto di sentire dire questa frase: tu non sei mia madre, accanto alla parola mamma. Mamma, tu non sei mia mamma. Ho detto sì, certo, allora non mi chiamare mamma. Appunto la risposta ha detto che c'entra: tu non sei mia mamma, ma io sono tua figlia. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. È un po' il tema, è il tema che si risolve, secondo me, cioè se non si risolve, che si affronta con veramente la gioia di fare la madre, il genitore, e di sostenere anche questo come uno dei tanti, diciamo, carichi che ogni genitore si trova a sostenere, pensando che poi è la vita quella di ogni giorno che vince, è il sostegno, è quanto siamo vicini ai nostri figli, è quanto li ascoltiamo, è quanto ci giochiamo, è quanto pensiamo a loro. Ecco, credo che se uno si concentra su questo, come dire, il grande tema del tu non sei mia madre assume un'altra coloratura e diventa uno dei tanti temi, uno specifico senz'altro, ma anche, come dire, la possibilità che abbiamo di riflettere su un punto che accomuna tutti, genitori adottivi e genitori biologici, cioè che i figli non ci appartengono. Ho trovato molto interessante il fatto di quanto uno si interroghi sul perché il bambino si comporta in una maniera invece che in un'altra, se questo dipenda dal fatto che è stato adottato o meno, che è una cosa che credo tutti i genitori adottivi si chiedono, no? Sì, allora te lo chiedi e te lo chiedi sempre. Il punto è, rispetto a questa domanda, cioè qual è il senso di questa domanda, no? Perché la realtà è che quando a una domanda non c'è una risposta, spesso cioè, si finisce un po' per annaspare nel buio. Allora, io credo che ci voglia anche lì un po' di tempo per capire il tipo di capricci, il tipo di bambino, il tipo di, perché poi ogni bambino è diverso. Però credo che a un certo momento si arriva a distinguere quando c'è davvero un richiamo a una cosa dolorosa, vera, e quando invece c'è la provocazione, il gioco, il capriccio. E paradossalmente, quando c'è un richiamo vero, il bambino non è così, disturbante, ma è veramente, il disagio si riconosce in una maniera più profonda. Quindi, stante che un po' questo è il compito del genitore adottivo, io credo che sia meglio, delle volte davvero un po' sdrammatizzare, un po' aiutarli a ridere anche delle cose difficili che poi incontriamo e incontreremo tutti nel corso della nostra vita. Il libro è in qualche modo un po' anche la summa di tutta quell'esperienza del blog, che adesso voglio riprendere, ma voglio anche capire come, e in fondo aspetto che da questo libro mi venga anche, dalla recezione che avrà, dal tipo di commenti che anche già ho cominciato a ricevere, mi verrà anche l'idea e lo spunto per come trasformarlo e come andare avanti. Comunque ho una pagina Facebook e un account Twitter come quasi tutti, dove seguo e ascolto, diciamo, i miei lettori. E ovviamente ti possiamo leggere in libreria con questo bel libro Il mare non chiude mai, a Maltea, adottare tre bambine e restare allegri, per Einaudi Editore. Grazie per essere stata con noi questa sera, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. E prima di chiudere noi diamo come sempre un consiglio su un libro da leggere. E allora, visto che abbiamo parlato di bambini e di migrazione e di identità, segnaliamo un libro per l'infanzia. Si chiama Di che colore sono le zebre? È stato scritto da Pino Pace, Notes Edizioni, ed è la storia di due cuccioli di zebra. Diversi dagli altri, sono nati infatti senza strisce. Uno è tutto bianco, l'altro è tutto nero, e sarà l'inizio di una serie di avventure che porteranno due giovani zebre a conoscere gli altri animali, a capire perché ognuno ha i suoi colori e che è unico e speciale. Ed è tutto per questa puntata. Io ringrazio in regia Peter Bescapè e tutti voi per l'ascolto. A sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.